Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, ovviamente Moody's, anche se è arrivata ieri a mezzanotte, il declassamento, l'abbassamento del voto al debito italiano, le agenzie di rating, lo spieghiamo sempre, sono tre, due più grosse e una più piccolina, Moody's e Standard & Poor's, tutte e due americane, con azionisti importanti nel senso che sono anche fondi e soprattutto fondi di investimento. E poi c'è Fitch che invece è francese. Moody's ha abbassato il voto dell'Italia e va bene, si fa per dire, anche del Portogallo, della Spagna e della Francia, con outlook e quindi le prospettive negative. Devo dire che anche questa volta, perlomeno per oggi, i mercati se ne sono bellamente fregati, nel senso che Milano è l'unica borsa positiva più 0,20%, Parigi perde lo 0,44%, ma anche Francoforte perde lo 0,30% e Londra lo 0,40. Al di là del mercato, però, l'America perde lo 0,26, così concludiamo la sintesi. Al di là del mercato lo si vede anche da com'è andata l'asta dei nostri titoli di Stato, perché questa mattina lo spread era tornato un po' a risalire, 377 punti. È sceso a 360 dopo l'asta. Abbiamo collocato oggi, come Italia, dei BTP a 3 anni, quindi scadenza 2014. Il tasso è sceso tantissimo, obiettivamente, praticamente dal 4,8% precedente al 3,4%. È il tasso di interesse, quindi il costo che l'Italia deve pagare per trovare finanziatori per il suo debito, più basso da 11 mesi, quindi da prima di giugno, quando è iniziata la corsa dello spread. Questo a dire che evidentemente il debito italiano all'estero lo si compra, e anche in Italia, alla faccia di Moody's. Non ce l'abbiamo con Moody's. Moody's fa il suo lavoro, che scriva quello che vuole. Sembra sempre un po' strano il tempismo, ma soprattutto, e torniamo al ragionamento già fatto, se non ricordo male, con l'economista Donato Masciandaro, le agenzie di rating o danno del valore aggiunto o ci raccontano qualcos'altro o fanno dell'analisi, dell'interpretazione, ma se devono certificare le difficoltà di Spagna, Italia, Portogallo e della Francia, grazie, siamo capaci anche da soli. Cioè, dov'è il valore aggiunto nel declassare l'Italia e dire l'outlook è negativo? Se tu non spieghi perché lo fai, magari spiegaci anche cosa pensi della manovra del governo Monti, perché la ritieni non sufficiente, quali sono le tue attese sui mercati, no? Ma insomma, se no così obiettivamente non serve a granché, ce lo giochiamo all'otto come numero. Comunque il rating italiano è stato tagliato da A1 ad A3, Lisbona da B a 2 a B a 3, Parigi e Londra hanno a rischio anche per Moody's la tripla A, così come ce l'ha ed è a rischio anche per l'Austria. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece il mercato del lavoro, domani si tornano ad incontrarsi le parti sociali con il governo, ma non parleremo delle Olimpiadi, ma adesso vi spiego anche perché. A mio avviso, meno male che non si sono fatte, però accetto commenti diversi al 349-238-6666, che è come sempre il numero per i vostri sms. Della borsa, diciamo solo che Parmalat guadagna il 5,90%, Campari il 3,70%, Terna il 2,60%, Saipem il 2%, come Tenaris e Luxottica il 1,90%, mentre l'automatica perde il 6,12%, la Pop Milano il 3,30%, Finmeccanica il 2,60%, Monte dei Paschi perde l'1,90%, euro a quota 1,31,38. Dicevo, mercato del lavoro, ne parleremo in apertura con Renato Mannheimer, perché al di là delle dichiarazioni molto improvvide, fuori luogo, di alcuni ministri e anche del Presidente del Consiglio in tema di giovani sfigati, monotoni, vogliono stare vicino a casa, in realtà quando si vanno a interrogare questi giovani di cui tutti parlano ma pochi conoscono, si scopre una realtà diversissima, e ne parleremo appunto con Renato Mannheimer, e si scopre una idea del posto tradizionale ma una disponibilità a muoversi altissima. Quindi attenzione anche quando alcuni vecchi se ne escono con frasi un po' scontate. 349-238-6666, subito le notizie in breve. Alcuni di voi vogliono riascoltare il passaggio del film che ha vinto l'Oscar come miglior documentario, Inside Job, su quanto hanno guadagnato le agenzie di rating dal 2002 al 2008. Ve lo facciamo riascoltare nella seconda ora del programma, no, perché è interessante vedere quanto si può guadagnare dando voti. E poi, tra l'altro, io non ricordo grandi allarmi lanciati da S&P e da Moody's negli anni in cui si stava creando la bolla finanziaria del secolo, cartolarizzando tutto, impacchettando e vendendo i rischi, usando effetti, un elemento leva altissimo, no? Creando derivati che valgono 55 volte il PIL mondiale. Io lì grandi avvertimenti non ne ho mai visti, ma mi saranno sfuggiti. Oro e petrolio. Oro in calo a 1715 dopo le pagine di Moody's, petrolio in rialzo sopra i $100 il barile, $101.2 al barile, il nuovo record per il diesel oggi è 1,745 euro, record che resta saldamente in mano a Tamoil, anche esso però ha portato di 0,4 centesimi, ha aumentato il prezzo del diesel. Sul fronte invece europeo, oggi la Grecia ha certificato il quarto anno di recessione ed è entrata nel quinto anno di recessione. -7%. Ora immaginate cosa sarebbe l'Italia se noi abbiamo avuto un -5% nel 2009, anno terribile per tutti, poi abbiamo recuperato qualcosa nel 2010, nel 2011, poi nel 2012 siamo in recessione, anche 2011 per carità siamo con segno meno, ma insomma la Grecia è dal 2009 che chiude con -5, -6, -7% nel PIL. Questo lo dico perché, ripeto, va bene chiedere ai greci di fare i compiti, va bene punirli, non umiliarli. Oggi non ne parliamo, ma la linea nostra resta sempre quella. E la Grecia è entrata a questo punto nel quinto anno di recessione, -8% i primi tre mesi dell'anno il PIL greco. È impressionante avere livelli, praticamente sono i livelli con cui la Cina cresce, solo che qua c'è il segno meno davanti. E anche in Portogallo si aggrava la recessione, -2,7% nel quarto trimestre il PIL, -1,8% nel 2011 il Portogallo farà un -1,5%, però nel 2010 il Portogallo era riuscito a crescere dell'1,4%. E cos'è che sta deprimendo il Portogallo, come anche la Grecia? Beh, il piano di austerità, quello che anche il Portogallo ha dovuto mettere in piedi per riuscire a ricevere 78 miliardi di euro di aiuti. Piano tra l'altro che svilupperà i suoi effetti nei prossimi mesi, e quindi è probabile che il dato sul Portogallo vada anche a peggiorare. Allora, le Olimpiadi. Vedo che la maggior parte degli ascoltatori sono d'accordo con Monti, non con me, io non ho deciso niente. Il costo previsto era 8,2 miliardi di euro, più un altro 1,6 miliardi per l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino, siamo a 10 miliardi. Ora, abbiamo già l'Expo, cerchiamo di portare a casa l'Expo bene, di farlo bene, di non sprecare, di migliorare, di lasciare che resti poi come valore aggiunto per la città e quant'altro. Alcune esperienze, non so, devo ricordare i mondiali, non sono esperienze esaltanti. Con i chiari di luna, a mio avviso, rischiare che i 10 miliardi diventassero 12, 13, 14, insomma, i costruttori romani sono bravi, ma sono bravi anche a avere le entrature giuste, eh? Meglio non farlo, dai. E comunque vedo che molti apprezzano la forza del governo di dire di no a tutti quelli, anche la Confindustria, devo dire, è molto a favore, ma tutte le pressioni che avevano ricevuto per fare le Olimpiadi a Roma. Sicuramente le Olimpiadi sono un'opportunità, ma ripeto, possiamo imbarcarci in un progetto di 10 miliardi adesso con la fatica che stiamo facendo a riportare i conti in ordine? Nella sicurezza o certezza che poi, mi dispiace, ma il paese è questo, 10 miliardi non sarebbero mai stati rispettati? Cioè, guardate come sono lievitati i costi ipotizzati per il ponte sullo Stretto di Messina, che ci sta costando già tantissimo solo di consulenze, forse era l'obiettivo iniziale. E mi sembra un buon motivo per dire di no ai giochi olimpici. Comunque, Monti così ha deciso, ha detto era a rischio il denaro dei contribuenti. Non ce la sentiamo di prendere questo impegno, un impegno finanziario che potrebbe gravare in maniera così pesante, non firmo la garanzia. E poi ha detto attenzione, è prematuro sganciare le cinture di sicurezza. Per numerosi anni a venire può dipendere dal a seconda che il decollo funzioni o no, molte cose possono cambiare per l'Italia non solo nei prossimi mesi ma nei prossimi tanti anni. E quindi siamo nei mesi in cui è prematuro sganciare la cintura di sicurezza. E adesso, prima di parlare del primo tema, i giovani e il mercato del lavoro, di cui domani si tornerà a discutere, sì, qualche notizia oggi su cos'è questa crisi, su come viene vissuta questa crisi nei suoi vari aspetti in Italia ma anche all'estero. Oggi ce l'abbiamo ed è carina, farà arrabbiare più di un ascoltatore. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, dopo Siberi anche Grazianise, potremmo titolare così, sempre in provincia di Caserta, sono... Cosa vuole Grazianese? Vuole il suo aeroporto. Non bastava il casino creato con quello di Sibari, inutile aeroporto. Oggi il Consiglio regionale campano, tra l'altro se mi arrivano le notizie ditemene, si dovrebbe pronunciare sul progetto. Il valore stimato di questo progetto, l'aeroporto fondamentale di Grazianese, è di 1 miliardo di euro. Praticamente vorrebbero potenziare l'attuale scalo militare. L'aeroporto, pensate, è situato a 37 chilometri da Capo di Chino, cioè, voglio dire, niente, un quarto d'ora. E non è che stiamo parlando della Ruhr o di Francoforte o di Londra allargata. 37 chilometri da Napoli Capo di Chino, sarebbe il settimo aeroporto civile in 350 chilometri in Campania. Uno studio del Politecnico di Milano ha bocciato tutti i progetti giudicandoli non fattibili, ma non demordono i politici casertani capitanati da Nicola Cosentino del PDL, che mi sembra che abbia già altri problemi, ma evidentemente si occupa anche degli aeroporti. Sostengono con forza la realizzazione del nuovo scalo che tra l'altro è un dettaglio soprattutto per Cosentino, ma si situerebbe in un'area ad altissima densità camorristica, qui auguri sul miliardo di euro e su quello che ci vorrà per costruirlo. In un'interrogazione parlamentare al ministro Passera, il deputato casertano del PD Stefano Graziano ha definito il progetto del PD, complimenti anche a Graziano, strategico non solo per Caserta ma per il rilancio economico e sociale del Mezzogiorno. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cosentino, Graziano, ma il progetto strategico dell'aeroporto a Grazianise, 1 miliardo di euro, strategico non solo per Caserta ma per il rilancio economico e sociale del Mezzogiorno. Avete Capo di Chino a 37 km, che è un aeroporto che funziona anche bene, dai, c'è sotto qualcos'altro. Forse volete lanciare una nuova zona industriale tra Grazianise e Sibari, vabbè. Professore Renato Mannheimer, buonasera. Buonasera, buonasera. Mi scusi se mi arrabbio, ma sta la cosa dell'aeroporto che Cosentino e gli altri vogliono a Grazianise, 1 miliardo di euro. Abbiamo un sacco di aeroporti in Italia, qualcuno è troppo. Ma ce ne sono 7 qui in Campania, 7. Ah, sì? 7. Perché c'è già Sibari, eh. Comunque. Non lo sapevo. Allora, tutti a Grazianise il sabato sera. Siete offese per gli abitanti, ci mancherebbe. Senta, qui abbiamo in queste settimane ha sentito ministri parlare un po' troppo dei giovani. Forse li conoscono poco, forse conoscono più gli studenti, forse conoscono più i loro figli. Ma insomma. Invece lei, e devo dire anche il suo collega Ivo Diamanti, noi ne abbiamo preso solo uno dei due, insomma, avete chiesto ai giovani cosa ne pensano del mercato del lavoro. Sì. E le fotografie sono quasi identiche e sono anche molto diverse dalle battute mammoni, sfigati, monotoni e quant'altro. Per esempio, quanto sono disponibili a spostarsi dal luogo dove abita la famiglia, dal luogo dove sono cresciuti i giovani italiani? No, quello disponibili, pur di avere un posto fisso, sono disponibili a spostarsi. Più o meno il 70% è disponibile ad andare in un comune diverso dal proprio e anche a rientrare solo per il weekend. All'estero è un pochino meno diffusa la cosa, secondo me meno diffusa di quanto dovrebbe, e più o meno metà dei giovani è disponibile. È interessante che sono più disponibili quelli con la scuola media superiore rispetto ai laureati, perché si vede che i laureati dicono: io ho preso la laurea, merito un posto vicino. Questa è una curiosità. Però c'è una disponibilità a spostarsi, pur però di avere un posto fisso. E qui arriviamo alla fotografia, perché come tutte le fotografie, no, c'è il chiaro scuro, non ci sono mai colori così nitidi. Perché abbiamo dei giovani che per il 90% sono disposti a lavorare in un posto diverso per rientrarvi la sera, 70% anche solo per rientrarvi il weekend, e 56% in un altro paese europeo, e un 50% anche in un paese non europeo. Però, e questi sono, diciamo, giovani moderni, sono, mi passi la battuta. Sono molto invece tradizionali quando si fa la domanda: che tipo di contratto vuole? Certo, beh, tradizionali, insomma, bisogna anche capirli. Loro vogliono il posto fisso a tutti i costi, il posto fisso è la cosa che interessa di più, al di là dello stipendio, al di là del contenuto del lavoro, al di là di ogni cosa, quello che interessa è il posto fisso. Va detto anche che i giovani vivono in questo momento in un ambito di grande precarietà, e quindi si può capire che la meta sia quella di un posto fisso. Il posto fisso ti permette di accedere al mutuo in banca, ti permette di farti una famiglia, comunque c'è questo atteggiamento. Non saprei se giudicarlo arretrato o no, diciamo che è comprensibile. Beh, finché le banche non troveranno un nuovo modo per dare le stesse garanzie anche a chi non ha il posto fisso e non ha i genitori che possono dare, diciamo, come garanzia la casa, lì non se ne esce. Solo che i giovani non hanno capito che purtroppo, io mi rendo conto che non ho ambizione, mi rendo conto che la precarietà è brutta, però il posto fisso non esisterà più. Cioè, bisognerà trovare delle forme di maggior tutele, però il posto fisso come era una volta, ai tempi miei, quello non ci sarà più. Ecco, un'altra cosa invece su cui mi sembra che appunto la comunicazione non sia passata è il rapporto tra posto di lavoro e reddito, no? Perché si è sempre detto, in un mercato in cui, lasciamo stare la flexicurity danese, però tu guadagni bene tanto ma sei più a rischio, diciamo, il lavoro non è per sempre. In realtà anche lì la risposta è molto netta, l'84% di quelli che avete sentito dice: no, meglio un posto in cui guadagno meno ma fisso, ho capito bene? Io ho capito benissimo, e questa è la realtà dimostrata da tante ricerche, cioè la fissa è il posto fisso, la per fissa dirla con un gioco di parole. La gente vuole questo anche a costo di guadagnare di meno, anche a costo di fare meno carriera, perché non si sanno e non si apprezzano le grandi potenzialità di un mercato più aperto e flessibile. Ripeto, è difficile apprezzarle nella condizione di chi passa da un lavoretto all'altro pagato 500 euro al mese, però è anche vero che tante esperienze ci mostrano che un mercato più aperto e flessibile può dare altrettante soddisfazioni, se non di più, di quelle del posto fisso. Questo non è passato. Ecco, Mannheimer, proviamo adesso ad andare oltre al semplice dato in questi ultimi minuti, perché anche quando voi avete chiesto sempre i giovani tra i 18 e i 34, qual è l'aspetto più importante del lavoro, la maggior parte, cioè il 36%, ha detto la sicurezza e la stabilità. Poi un 17%, quindi molto staccato, lo stipendio / reddito. Poi al terzo posto l'interesse per il tipo di lavoro, 13%, e poi gli altri sono proprio minimi: flessibilità 6%, buoni rapporti con i compagni 6%, la possibilità di fare carriera il 4%. Allora, non so se sto generalizzando, forse sì, ma possiamo dire che contrariamente ai giovani degli anni 90, per non parlare di quelli degli anni 80, che vivevano con prospettive crescenti comunque e con attese crescenti, qua la carriera mi sembra scomparsa come ambizione. Cioè, e abbiamo la sicurezza, diciamo, ad ogni costo sul posto. Sì, naturalmente bisogna ricordare come era stata formulata la domanda. si chiedeva non se ciascuno di questi aspetti fosse importante, ma qual è il più importante di tutti dovendo scegliere, e viene scelta, come ci dicevamo, la sicurezza. Non che non sia importante il reddito, ma la sicurezza è più importante. Non che non sia importante l'interesse sul lavoro, ma la sicurezza è più importante. Ancora una volta questo è figlio dei nostri tempi. Una volta si era molto più sicuri sia di trovare un lavoro sia di mantenerlo, e questo è il prodotto di questo stato di cose. L'aspetto grave è che questo è proprio nella cultura dei giovani di oggi, e non solo dei giovani, perché abbiamo fatto la stessa domanda ai meno giovani e i risultati sono uguali, non è che cambino. Allora, una correzione, non so se ho detto per sbaglio in diretta Sibari in Campania, no, sono 7 gli aeroporti richiesti tra Calabria e Campania. Sì, ci mancherebbe, Sibari non è, come scrivono alcuni, nemmeno in Basilicata, non è in Campania, è in Calabria. Punto 1. Punto 2, non sono tutti operativi, sono le richieste di 7 aeroporti a distanza di qualche decina di chilometri l'uno dall'altro. Punto 3, avete ragione. Quello che è stato fatto a Brescia è stata una cavolata, tant'è che l'aeroporto di Brescia è in estrema difficoltà, non se ne abbiano i bresciani. Un aeroporto tra Verona e Bergamo messo lì così non è mai decollato, che per un aeroporto non è male. Mannheimer, alla fine però, e torniamo quindi al tema del mercato del lavoro, lei, al di là delle risposte più o meno sfaccettate e quant'altro, non ha avuto la sensazione di uno scollamento al di là della disponibilità a muoversi tra, diciamo, esigenze, richieste di pancia di questi giovani e invece tendenza del mercato del lavoro? Sì, certo, lo scollamento c'è. Il mercato del lavoro non può più accettare i posti fissi come un tempo, e i giovani invece richiedono proprio questo. È perché non si è stati capaci di presentare ai giovani un mercato del lavoro che non dà più la sicurezza ma dà delle tutele, mentre oggi questi ragazzi effettivamente non ne hanno. Ricordiamoci la quantità enorme di giovani che né studiano né lavorano, hanno rinunciato a tutto. Questo è un problema sociale da affrontare, un problema sociale molto grave. Però lei, che appartiene a un'altra generazione, e dove forse c'era così tanto lavoro, no, ma insomma c'erano attese comunque crescenti, per cui fare, non avere posto fisso era quasi figo. Uno diceva: ma io sono così bravo che posso, no, diventare un libero professionista. Lei, se dovesse fare un'autocritica e dire perché non siamo riusciti a comunicare come va il mondo, ma soprattutto perché abbiamo dei giovani che ragionano col posto fisso che mancano nel dopoguerra? Per due motivi. Primo, perché l'abbiamo inculcata noi questa cultura, l'hanno inculcata alcune forze politiche, alcuni sindacati e così via. Secondo, perché noi stessi, i nostri governi, non hanno saputo capire le cose che cambiavano, si sono mantenute su una regolazione vecchia che tutela esageratamente, secondo me, il posto fisso, mandando alla deriva chi il posto fisso non ce l'ha e non provvedendo, per esempio, a una legislazione di tutele per chi perde il lavoro, per chi lo cerca, eccetera, come c'è in altri paesi. Cioè, la flessibilità si può introdurre se si introducono al tempo stesso degli ammortizzatori, che da noi non ci sono. E allora siamo in un guaio, perché adesso dobbiamo abolire la flessibilità e non sappiamo cosa fare e non abbiamo più soldi. No, ma io spero veramente che il ministro Fornero, che conosce bene il mondo bancario, anche perché era nel Consiglio di Intesa San Paolo, il ministro Passera, che conosce benissimo il mondo bancario perché era amministratore delegato di Intesa San Paolo, portino nel pacchetto complessivo di riforma del mercato del lavoro anche il nuovo rapporto con il mondo bancario. Qui stiamo ricevendo decine di sms, Mannheimer, in questo momento, che dicono tutti la stessa cosa. Ho 29 anni, leggo l'ultimo arrivato, lavoro autonomo, circa 40.000 euro annui, sono costretto a stare in affitto perché non ho il 30% da dare come anticipo per il mutuo. Messaggio successivo: senza un contratto a tempo determinato non si può fare alcun progetto di vita. Cioè, qui c'è un problema anche molto concreto del rapporto bancario, col mondo bancario e con quello che è, insomma. Sì, con un progetto di vita. Con un progetto di vita. Perché il mondo bancario da una parte, dall'altra parte anche il mondo bancario ha le sue ragioni, senza garanzia non presta. Qui è un compito dello Stato provvedere a una legislazione di tutele e a una maggiore flessibilità per chi deve dare lavoro. No, perché non vorrei che tutti si concentrasse sulla forma contrattuale, che va benissimo, perché bisogna mettere ordine in questa giungla di tempi di contratti atipici. Solo il 19% dato Istat di ieri dei giovani ha un posto fisso. Però attenzione, pensate anche al resto, se no rimoduliamo le forme contrattuali, ma uno va in banca e si sente sempre chiedere i tuoi genitori cosa hanno da mettere come garanzia. La vita è anche questa, per i giovani, assolutamente. Per i giovani normali, per i figli di no, non sanno già chi è il papà. Comunque, sì. Professor Mannheimer, grazie. Grazie, presidente dell'ISPO, Renato Mannheimer. A presto, grazie. Mi è venuto in mente, giustamente, su questo vedo molti messaggi. Devo dire che il tono è sempre uguale, per cui sì, noi saremmo anche disposti, ma è il progetto di vita che manca con un posto non fisso. A chi dice ancora di Sibri, l'ho detto, Sibri è in Calabria, citavo i 7 aeroporti vicinissimi a quello di Napoli. C'è una canzone dei Gufi, se non ricordo male, che parla proprio del posto fisso in banca. Mi è venuto in mente, ce l'abbiamo? Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. L'utilitaria la comprarate e per l'estate mi faccio un vestito blu. Più 0,47% la chiusura in questo momento di Milano, meno 0,27 Parigi, meno 0,14 Francoforte, meno 0,20 Londra, meno 0,17 anche l'America, euro a quota 1,31,45. Il caso di borsa di oggi è Lottomatica, meno 5,80% da un lato e Parmalat più 6,30% dall'altro. Alcune domande alcune commenti arrivati, scusatemi, a 349-238-6666. Giustamente scrive un ascoltatore: qui il problema non è il posto fisso a vita, uno può cambiare vari lavori, ma nel momento in cui è in quel lavoro lì avere delle garanzie in più. È vero anche questo, cioè non è lo stesso lavoro a vita, ma è una garanzia, una tutela più alta quando, nel momento in cui hai quel lavoro. E poi devo dire, la stragrande maggioranza dei messaggi sono esempi di difficoltà ad accendere un mutuo per la casa, per la macchina e per quant'altro, se non ci sono i genitori che garantiscono, perché con quel tipo di contratto le banche non fanno credito. Questo secondo me è il problema. Io scommetto che se il mondo bancario trovasse una formula, ci sarà una formula, per poter prestare soldi per un mutuo anche a chi non ha il tempo determinato, la busta paga a fine mese, tutti i mesi, fissa, probabilmente cambierebbe l'atteggiamento di molti giovani sul posto fisso e sul contratto a tempo indeterminato. Attenzione però a fare esperimenti, che la generazione dei trentenni e dei ventenni, come scrivono alcuni, è la generazione delle riforme, se le sono beccate tutte, dalla scuola al mercato del lavoro. Allora, attenzione anche su questo. A borsa, mentre c'è chi difende l'aeroporto di Montichiari a Brescia, mi dispiace per lui, ma insomma tra Bergamo e Verona non poteva finire diversamente, al di là della gestione. E va bene anche così, utilissimo, cioè un aeroporto che ha 30 km da quello di Verona e a 30 km da quello di Bergamo, capirai. Più 0,47% Milano, meno 0,26 Parigi, meno 0,15 Francoforte, meno 0,21 Londra, dicevamo. Parmalat più 6,30%, ne parliamo come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, nella persona di Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Devo dire Parmalat e Campari. Sì. Anche Campari bene, più 3,90%. Sì, per quello che riguarda Parmalat sono tornati dei rumor che erano circolati anche nelle scorse settimane relativi a un maxi dividendo per la società di Collecchio, però in generale è andato bene un po' il settore alimentare anche nel resto d'Europa, anche Campari, dicevi tu, più 3,87%, perché domani arriveranno i conti annuali di Danone, che sono comunque un po' un riferimento per tutto il settore, e anche su questa attesa tutto l'alimentare è andato bene oggi in Europa. Ancora invece Terna più 2,70%, qui c'è stato un collocamento di obbligazioni Terna, quindi di debito Terna, con una buona domanda, se ho ben visto. Sì, una buona domanda, sono stati collocati bond per 1,25 miliardi, con questo collocamento diciamo l'azienda è a posto fino al 2015, la domanda è stata buona, per cui insomma oggi il mercato ha premiato la società. Oddio, è arrivata la notizia che non volevo, La regione Campania ha deciso che l'aeroporto di Grazianise, ne abbiamo appena parlato, si farà. Complimenti. È una grande opera, dice l'assessore Vettrella. Questa è una cosa che mi fa impazzire. Ve la racconto dopo perché la notizia è appena uscita. Andiamo avanti con la borsa invece, Guido. Perché sul fronte opposto abbiamo Lottomatica meno 5,80%, Pop Milano meno 3%, Finmeccanica meno 2,30%. Lottomatica, qui l'ipotesi di nuove tasse sul gioco, no? Nuove tasse sul gioco che sarebbero allo studio del governo, con cui l'esecutivo punta a recuperare 500 milioni di euro. Sul titolo la notizia si è fatta sentire, vendite fin dai primi scambi nella mattinata e anche la chiusura è pesante, meno 5,83%. Dicevo, male anche la BPM, qui pesa ancora la vicenda del convertendo, l'avviso di garanzia per Ponzellini, Chiesa et altri, Finmeccanica, non ho visto motivi particolari, c'è qualcosa di specifico? No, ieri aveva guadagnato un pochettino alla luce di una commessa che era arrivata nel tardo pomeriggio, oggi un po' di prese di beneficio, nessuna notizia particolare. Allora, ancora per quello che riguarda i titoli, Monte dei Paschi meno 1,90, Telecom meno 1,20, come Mediobanca e Buzzi Unice meno 0,70, l'ha perso UBI Banca. Tra chi guadagna invece anche Snam Rete Gas, dopo i conti, è più 1,70%. Sì, oggi ha approvato i risultati del 2011, l'utile ha mostrato un calo dell'11,6%, ma si tratta in gran parte dell'effetto della Robin Hood Tax. La società ha infatti anche deciso invece di aumentare addirittura il dividendo del 4,3% a 0,24 euro, una società considerata per cassettisti, per cui l'aumento del dividendo è una buona notizia per il mercato. Migliori e peggiori in assoluto. Montefibre più 16,5, Archimedica più 15, Carself più 11, KME più 7,6 e Parmalat, appunto, peggiore in assoluto, Italy One Investment meno 13%, Antichi Pelletieri meno 8,80, Gas Plus meno 8,50%. Grazie Guido Morino, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Allora, mentre vedo che Petrucci, il presidente del CONI, è disperato perché Monti gli ha bocciato le Olimpiadi, perché avete aspettato l'ultimo giorno per dircelo, vabbè. Insomma, dai, 10 miliardi previsti, che poi diventavano sicuramente 12, 13, 14, 15, in questo momento è una manovra finanziaria per le Olimpiadi a Roma nel 2020. Ma per favore, a parte i costruttori e qualche altro gruppo di interessi, a chi poteva far comodo una cosa del genere? E poi Grazianise, non ci posso credere, l'aeroporto di Napoli Grazianise si farà. Il Consiglio regionale poco fa, in una riunione monotematica, cioè solo di questo, perché c'è 1 miliardo di investimenti previsti in una zona a quasi totale controllo camorristico, capitanata questa vicenda dal senatore Nicola Cosentino, su cui i PM stanno indagando. La questione piena di polemiche. Comunque, l'assessore regionale dei trasporti della Campania, Sergio Vetrella, si tratta di una grande opera su cui poggia lo sviluppo non solo la Campania ma l'intero paese. Ci vorranno 20 anni per mettere a regime l'aeroporto a Grazianise. Vetrella, l'assessore, conferma lo stanziamento di 50 milioni di euro per sviluppare il progetto, quindi intanto 50 milioni di euro li buttiamo sul progetto, poi magari si bloccherà, intanto questi giustamente arrivano. Non è possibile tenere, dice Fulvio Martuscello del PDL, io li voglio sentire questi qua dopo le 18, però non è possibile tenere in quarantena la provincia di Caserta. Questo aeroporto qua verrebbe costruito a 37 km da Capo di Chino, da Napoli, 37 km. Avremmo dovuto affrontare anche altri temi, ma insomma, resto di stucco. Intanto vi leggo una notizia appena battuta. Car Luxury Investment, società italiana del gruppo cinese Hot York Investment Group, ha raggiunto l'accordo con la De Tomaso e quindi acquisterà la quota di maggioranza dell'azienda torinese, lo ha confermato il presidente della società Q Kun Jan. E il gruppo cinese ha detto che saranno garantiti tutti i posti di lavoro per quello che riguarda il progetto. Crediamo nel piano finanziario presentato dalla famiglia Rossignolo e intendiamo sviluppare la produzione negli stabilimenti esistenti in Italia, garantendo il mantenimento di tutti i posti di lavoro attuali, così appunto Q Kun Jan, presidente di Car Luxury Investment, società italiana del gruppo cinese Hot York Investment Group. Ancora non vi ho dato, scrivono alcuni, non vi ho dato il livello dell'euro sul dollaro, ci mancherebbe, chiedo venia, a 1,3152 lo spread l'avevamo dato e comunque lo ridò volentieri dopo il collocamento dei BTP a 3 anni, cioè con interessi in forte calo, al 3,41% contro il 4,83% dell'asta precedente. Dicevo, tassi in forte calo al 3,41%, il tasso di interesse è il più basso da 11 mesi a questa parte, lo spread è poi sceso a 360 punti. Alcuni vogliono che sul nostro sito, sulla nostra pagina di Facebook, postiamo la cosa dell'aeroporto di Grazianise. Beh, volete che la raccontiamo di nuovo? Se volete, sì, certo, la raccontiamo di nuovo. Eh sì, perché nel giorno in cui molti di voi festeggiano il no alle Olimpiadi da parte del governo Monti, troppi soldi, a rischio il denaro dei contribuenti, ci ha pensato la regione Campania, a cambiare le cose. Praticamente il valore del progetto dell'aeroporto di Grazianise è di 1 miliardo di euro, cioè serve questo per potenziare l'attuale scalo militare. L'aeroporto però, e questo grida vendetta, è a 37 km dall'aeroporto di Napoli Capodichino, che è un aeroporto internazionale che funziona anche bene, secondo me, e sarebbe il settimo aeroporto civile in un raggio di 350 km tra Campania e un pezzo di Calabria. Uno studio del Politecnico di Milano ha già bocciato il progetto su tutta la linea, giudicandolo non fattibile. I politici casertani, però, capitanati da Nicola Cosentino del PDL, hanno sostenuto con forza la realizzazione del nuovo scalo, che tra l'altro, lo dico con massimo rispetto per gli abitanti di Grazianise, si situa in una zona ad alta densità camorristica, per cui il rischio è alto, al di là di Cosentino, insomma, lì poi ci penserà la magistratura a capire se è o no colluso con la camorra, ma insomma è la zona che... Però la cosa che mi fa impazzire, che non è solo il PDL a spingere, perché anche il PD, Stefano Graziano, magari cerchiamo anche Graziano, ha definito il progetto strategico non solo per Caserta, ma per il rilancio economico e sociale del Mezzogiorno. E infatti poco fa, quando l'hanno approvato, che la Giunta è riuscita a approvarlo, l'assessore ai trasporti, cerchiamo anche Vetrella, Sergio Vetrella, ha detto: si tratta di una grande opera su cui poggia lo sviluppo non solo della Campania, ci vorranno 20 anni, ma intanto abbiamo stanziato 50 milioni di euro per sviluppare il progetto. Ci vorranno 20 anni per fare un aeroporto a Grazianise. Quanto cavolo ci metto? E poi questa cosa bellissima di Martuscello, cerchiamo anche Martuscello. Non è possibile tenere in quarantena la provincia di Caserta perché c'è la macchia della camorra. E poi ha tirato in ballo anche Saviano, reo di aver legato la costruzione dell'aeroporto alla volontà di Cosentino e dei cosentiniani. Oggi, conclude Caputo, sappiamo che il vero player decisionale sarà la regione Campania. La regione dice: l'aeroporto si farà, è una grande opera, mi cascano le braccia e non solo. Vediamo se riusciamo a beccare Martuscello, Vetrella, l'assessore del PD, tutti questi favorevoli all'aeroporto a 30 km da Capodichino. 349-238-6666 per i vostri SMS. Cosa è successo a Sibari? Allora, la Regione Calabria ha già stanziato 6 milioni di euro per l'esproprio dei terreni su cui realizzare il nuovo aeroporto di Sibari. Altri 28 milioni dovrebbero arrivare dai fondi europei. Dovrebbe diventare un hub di collegamento con le destinazioni del Medio Oriente. E quello sarebbe già il quarto aeroporto della Calabria. Però, visto che mi segnalano che c'è in collegamento il capogruppo del PDL in Campania, onorevole Martuscello, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i radiospettatori. Allora, mi spiega una cosa, cioè, mi sembra che voi siete compatti in regione sulla necessità e sull'essere cruciale, sull'aspetto strategico dell'aeroporto di Grazianise, ho capito bene? Ma guardi, l'aeroporto internazionale è una questione che attiene alla programmazione che un governo deve fare rispetto al territorio, rispetto al sud del paese. I precedenti governi avevano immaginato che in Campania ci fosse un aeroporto internazionale, avevano individuato prima un'area diversa, quella di Lago Patria, e poi successivamente, intorno agli anni 90, hanno individuato un aeroporto militare dismesso, quello di Grazzanise, e lì hanno immaginato che si potesse costruire un aeroporto internazionale. È chiaro, vuol dire, che questa questione attiene a quello che un governo nazionale vuole fare rispetto allo sviluppo del sud del paese. È anche vero che si va verso una dismissione degli UB, una riduzione del loro numero, e quindi bisogna valutare poi la compatibilità di Grazzanise con la sua vicinanza rispetto a Fiumicino. No, mi scusi, perché è a 37 chilometri da Capodichino, sorgerebbe questo aeroporto. Allora, vuol dire che chiudereste a Capodichino? Guardi, un aeroporto internazionale naturalmente ha una attività diversa dagli aeroporti nazionali. Noi abbiamo in Campania l'aeroporto di Ponte Cagnano in provincia di Salerno e abbiamo l'aeroporto di Capodichino in provincia di Napoli. È chiaro, voglio dire, che l'idea di avere un aeroporto internazionale gioverebbe alla Campania e al Meridione, ma naturalmente queste sono scelte strategiche del governo. Sì, no, chiaro. Ma a me interessava quello che pensate voi, però, perché il costo previsto è 1 miliardo, 20 anni per realizzarlo, mi sembra una scadenza. Sì, ripeto, ma non c'è nulla a carico della regione, in qualche maniera la speranza dei campani di avere un aeroporto internazionale. Naturalmente bisogna valutare l'impatto di un aeroporto internazionale rispetto alla sua vicinanza con un altro aeroporto internazionale, qual è Fiumicino. Quindi io lo metterei in relazione alla sua vicinanza a Fiumicino. No, ma in generale, la ragione d'essere Grazzanise se fosse una specie di Fiumicino 2, ma è chiaro che noi andiamo verso una dismissione degli UB, non certamente un aumento degli UB. No, anche perché, glielo chiedo, perché a me sembra comunque folle, mi permetta, l'intera idea. Le spiego perché. Perché già ci sono 7 aeroporti a distanza di 350 km. Io stavo citando, prima che lei arrivasse in collegamento, il caso della Calabria, e cioè oltre a Reggio Calabria c'è Lamezia Terme, Crotone e vorrebbero fare anche Sibari. Ma insomma, solo Lamezia Terme è in attivo con 300.000 euro di utili. Reggio Calabria perde milioni di euro, Crotone ha addirittura sospeso le attività. Cioè, voglio dire, tra l'altro voi questo Grazzanise lo costruireste in una zona, è inutile girarci attorno, ad altissima densità di camorristica. Ora, non converrebbe ampliare Capodichino così, giusto per, visto che già c'è, è già un aeroporto internazionale, no? Guardi, l'idea di porre, diciamo così, il veto e quindi dire che Grazzanise ha il peccato originale perché viene costruito in una zona ad alta densità camorristica, mi dispiace, non la posso accettare, perché vuol dire, se passasse questo ragionamento, diciamo, bisognerebbe cancellare dalla cartina geografica tutte le province che abbiano problemi con la criminalità organizzata. Qui c'è tanta gente onesta che fa ogni giorno la sua battaglia contro la camorra e la testimonia questa battaglia in prima fila. Il problema non è questo, il problema non è Caserta, il problema non è dove quindi immaginare di costruire. Il problema vero è che occorrerebbe che il governo ci faccia sapere rispetto al meridione, rispetto al sud, quello che si vuole fare. È chiaro, vuol dire, che Grazzanise non sarebbe un aeroporto come l'aeroporto di Ponte Cagnano o l'aeroporto di Sibari. È anche vero che, diciamo, le politiche meridionali fino a questo momento, fino agli anni passati, sono sviluppate nell'aumentare le province e nell'aumentare gli aeroporti. Questo è indiscutibile e ha perfettamente ragione. L'idea era quella l'idea del governo che ci ha diciamo preceduto e anche quello degli altri governi, era quello di avere un aeroporto internazionale in Campania. Naturalmente, quando è stato disegnato l'idea di Grazzanise, parliamo negli anni, inizio anni diciamo 90, si aveva una idea del trasporto aereo diversa da quella che c'è oggi. Oggi si va verso una riduzione degli UB. Quindi sì, è chiaro, vuol dire che la Grazzanise intanto potrebbe esistere in quanto si collegasse direttamente con uno scalo collegato a Fiumicino, quindi una sorta di Fiumicino 2. Non avrebbe ragione di essere, ma perché non ampliare, regionale? Onorevole, io non ho capito due cose. La prima è, comunque, la Giunta ha già deciso di stanziare i primi soldi per la fattibilità del progetto? No, assolutamente non c'è questo. No, perché non c'è. Cioè, Vetrella, che è l'assessore regionale dei trasporti campano, ha detto che ha confermato lo stanziamento di 50 milioni di euro per sviluppare il progetto che sarà realizzato con gara internazionale. Cioè, già 50 milioni di euro partono? No, non partiranno, diciamo. C'è l'idea di attendere la valutazione dell'ENAC. L'ENAC su questo tema farà sapere alla Campania qual è il piano dei trasporti per il sud. Quindi attendiamo le valutazioni dell'ENAC. Oggi l'ha ribadito Vetrella in durante un dibattito che si è svolto sul tema in Consiglio regionale, perché la Regione non ha competenza su questo tema, e quindi ci atterremo a quello che l'ENA, quindi poi il Governo nazionale, vorrà fare. Ripeto, probabilmente più che tentare oggi di lavorare su un'ipotesi di Grazianise semplice, probabilmente andrebbe ridisegnata l'organizzazione degli... Ecco, mi scusi, una domanda che fanno molti ascoltatori e le giro volentieri, ma questi soldi non sarebbe più utile metterli per l'inceneritore? Cioè, voglio dire, le priorità campane in questo momento sono avere un hub internazionale. Ricordo che Capodichino comunque un aeroporto già internazionale, non è così collegato, ma insomma si vola su Londra, su Parigi, su... Molte destinazioni... non possono atterrare, diciamo, i Boeing, non possono atterrare i Boeing, per carità, una pista molto stretta e l'aereo, diciamo, poi impenna quando sale, diciamo. Per carità, però dico, utilizzare i soldi per altro, no? Guardi, lei ha perfettamente ragione, il problema del sud che spende male è un problema atavico, è un problema di classe dirigente, quindi questo è... lei mette il coltello nella piaga, diciamo, nel senso che è il male di questo, cioè, vedere che la giunta campana oggi si è riunita con una monotematica sull'aeroporto di Grazianise. No, e ho anche una seconda domanda per lei. Lei dice giustamente, non è che non possiamo costruire e fare investimenti solo perché c'è la camorra, ha ragione, ma il fatto che il capofila di questa iniziativa per l'aeroporto di Grazianise sia il suo collega di partito Nicola Cosentino non la preoccupa? Ma guardi, il capofila del progetto su Grazianise è da ricercare nell'attività dei governi degli anni 90, quindi penso quando Cosentino fosse un ragazzino con i pantaloncini corti, diciamo, quindi. Detto questo, naturalmente va alzato il livello di guardia su tutte le questioni che riguardano qualsiasi attività, diciamo, pubblica. Noi siamo in prima linea nella lotta alla camorra, noi riteniamo che i magistrati della DIA, dell'anticamorra, stiamo facendo un servizio straordinario in questa regione, che sono degli eroi, dei martiri, perché, diciamo, si davvero combattono con pochissimi mezzi e con grandissime capacità investigative, e quindi a loro va dato il massimo supporto e il massimo incoraggiamento. Detto questo, io ho fatto solo una riflessione, diciamo, antropologica, nel senso che non possiamo criminalizzare una provincia perché c'è un'alta densità camorristica. Va detto anche che, naturalmente, è il governo che dovrà farci sapere quale prospettive di sviluppo ha il meridione, quindi in queste prospettive dove allocare, diciamo, vedo molti messaggi che dicono anche, ci sono anche altri casi, Cuneo, negli anni scorsi si è assistito una moltiplicazione di province, Imperia, di stazioni provinciali e di aeroporti. Diciamo, la storia d'Italia è piena di questo, di cattivi amministratori. Ma dica la verità, visto che oggi il governo ha bloccato le Olimpiadi, lei si augura, onorevole Mattuscello, che alla fine blocchi anche questo aeroporto, perché si scatenerebbe di tutto lì, 20 anni di progetto. Allargate un po' Capodichino, trovate un altro modo, c'è l'alta velocità tra Roma e Napoli, cioè investiamo... Ma guardi, è indiscutibile che ci sia, diciamo, anche che c'è l'alta velocità anche tra la Napoli-Bari, che è un'altra delle priorità, diciamo, di collegamento, perché Napoli e Bari non sono affatto collegate per via treno, quindi, diciamo, c'è sicuramente tantissimo da fare nel settore delle infrastrutture. Sinceramente le dico, se vogliamo concludere rispetto a come abbiamo iniziato, che se soltanto c'è la minima possibilità che la camorra possa metterci non dico un dito ma anche un'unghia, allora le dico che non si deve fare. Allora, siccome sappiamo che probabilmente sarà così, non ampliamo Capodichino, troviamo dei collegamenti fatti bene via treno con Roma Fiumicino, che è un hub importante, c'è la Lamezia Terme più a sud, insomma. Io sono perfettamente d'accordo, ed il problema vero è il governo che ci deve far sapere rispetto allo sviluppo della capitale del meridione, Napoli. Oddio, anche se la regione Campania si fosse opposta, diciamo, di principio avrebbe aiutato, invece qua mi sembra che siamo tutti d'accordo. Però mi permette di dire, oggi non si è sfalsato nulla, oggi era un dibattito su iniziativa del centro-sinistra che chiedeva che il governo regionale prendesse posizione a favore di Grazianise, quindi si è sviluppato solo un dibattito consigliare senza sostanzialmente... Sì, ecco, dico se invece la regione si schierasse contro Grazianise, forse eviteremmo avrebbe un effetto, comunque, mettiamolo così, di moral suasion, dichiarato a favore delle Olimpiadi, il governo ha scelto di andare contro, quindi, diciamo, probabilmente non è che ogni volta che la regione o il comune dice una cosa il governo fa il contrario. Comunque, onorevole Mattuscello, insomma, sento tra le righe, insomma, le sue perplessità, almeno questo, speriamo che... Ma guardi, le perplessità sono di quelli di tutti i campani che sono quotidianamente in trincea per cercare... Fate gli inceneritori, che quelli sì che vi servono, e poi i collegamenti, ci mancherebbe, i collegamenti non solo... Ma guardi, il problema dei rifiuti a Napoli oggi purtroppo è la è dovuta al fatto che il sindaco di Napoli ha chiesto e ottenuto attraverso dal consiglio comunale di non fare un inceneritore in città, quindi quello è il problema vero. E oggi siamo con una differenziata che non parte ancora, non raggiunge le percentuali promesse, quindi quello sarà anche colpa anche dei napoletani. Diciamo che le discariche si saturino, rischiamo nuovamente di andare in emergenza. Questo è la realtà, diciamo, odierna. Grazie. Grazie a voi. Al capogruppo del PDL Fluvio Martuscello. C'è chi scrive: lei è un nordista. Boh, ma figura. Abbiamo criticato l'aeroporto di Brescia, l'aeroporto di Cuneo, l'aeroporto di Imperia. Però attenzione. Insomma, sentir dire che lo sviluppo del sud, o come ha detto l'assessore dei trasporti, un'opera fondamentale per lo sviluppo non solo della Campania ma dell'intero paese, che il problema del sud della Campania è che non atterrano i Boeing o gli A380, a noi ha fatto venire in mente una cosa, tanto la sapete, ma ve la faccio ascoltare. Il sole, il mare, fighi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quello che voi chiamate piaghe. Una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, è l'Etna, il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere, lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia, ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella pezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. Allora, risponde anche chi scrive: nessuno ha mai detto di non fare progetti là dove c'è la Camorra, la mafia o l'Andrangheta, tant'è che potenziare la rete ferroviaria con Roma, potenziare Capodichino, l'idea di fare un nuovo aeroporto internazionale, un hub che ci mette 20 anni a essere costruito nei progetti, che costerebbe in via di principio 1 miliardo in una zona ad altissima densità camorristica, mi sembra un lusso che la Campania non si può permettere, questo possiamo dire? Nessuno agli investimenti al sud vanno fatti, ma sono di altro genere. Sta benedetta Salerno-Reggio Calabria, la linea ferroviaria. Devo dire che aveva ragione Martuscello, l'alta velocità tra Bari e Napoli. Questi sono investimenti. Per favore, dai, l'aeroporto, l'hub per il Jumbo a Caserta. Professor Franco Bruni, buonasera. Buonasera. Ecco, allora non parleremo con lei di aeroporti, perché lei è uno degli economisti che più apprezziamo quando parliamo di economia internazionale, ma parleremo di agenzie di rating. Allora io non voglio rifare quel discorso, ma una domanda gliela devo fare. Le agenzie di rating facciano quello che vogliono, Moody's ieri ha abbassato il voto dell'Italia, però non trova che ormai siano della specie di enti certificatori che non ti dicono nulla in più? Cioè, se tu mi abbassi il voto o me lo alzi e mi spieghi perché, che cavolo di analisi hai fatto, ma se devi farlo come certificazione perché l'economia è un po' peggiorata e ci mancherebbe, le prospettive non sono buone, lo sappiamo anche da soli, mi chiedo ma che serve? Sì, lei ha perfettamente ragione. Io penso che nel caso dei sovereign ratings, cioè del rating che riguardano, diciamo, la probabilità di insolvenza dei governi, le agenzie di rating non abbiano nessuna professionalità specifica da offrirci, il loro mestiere è quello di giudicare diciamo la bontà di emissioni di titoli di imprese, di banche, che sono complicati, soggetti privati, per cui occorre raccogliere delle informazioni in modo sistematico, cosa che loro possono fare con la loro professionalità, la loro esperienza, la loro capacità, incrociando informazioni che arrivano da diverse, ma sul fatto che sulla differenza di probabilità di fallimento dell'Italia dalla Francia o dell'Italia dalla Germania non hanno assolutamente nulla da offrire al mercato, che il mercato non sia già per conto suo capace di intuire o capire, quindi dopodiché il mercato non ci capisce niente neanche lui, però loro non hanno nessun vantaggio, quindi io arriverei addirittura a proibirli certi rating, perché soprattutto in certe fasi sono pericolosi. Sì, a me proibire non piace, cioè, se uno faccia quello che vuole, però devo capire appunto se uno giudica un privato e ha informazioni in più, dice la società X secondo noi ha prospettive negative, abbiamo fatto le nostre analisi, ma sul debito di un paese sentirsi dire c'è l'incertezza legata alla situazione europea, però le riforme e incertezze sulle riforme in atto, incertezze sulle previsioni economiche, però c'è la fragile fiducia dei mercati, però poi l'Italia ha un'incertezza tutta sua sulle prospettive economiche, però, e anche sui conti pubblici, quindi c'è un rischio significativo che il governo italiano non riesca a centrare gli obiettivi di risanamento a causa della marcata debolezza strutturale dell'economia del paese. Ma non si può sentire una cosa del genere, Bruni, ce lo sappiamo tutti. Assolutamente. Primo suo studente di economia che legge un po' i giornali riesce a dire le stesse cose e non abbassa il rating. Sì, ma questo lo dice, oltretutto loro arrivano in ritardo, quindi sono sempre fuori fase e diventano prociclici. Perciò io penso che proibirli no, ha ragione, non è il caso, a parte alcune eccezioni, cioè ci sono situazioni di paesi che sono sotto aiuto internazionale, sotto attacco speculativo, e lì temporaneamente si può arrivare, come del resto la Commissione sta pensando di fare e in parte ha già fatto, impedire. Altrimenti bisogna cercare di fare in modo che non ci siano regolamentazioni di portafoglio che considerino il rating come un fatto determinante. Esatto. E lì noi siamo, diciamo, gli autori, abbiamo causato il male di noi stessi, perché insomma nel momento in cui l'Europa, anche con Basilea 2 e Basilea 3, ha dato tutto questo ruolo all'agenzia di rating per quello che riguarda le banche, nel senso che la banca poi usa l'agenzia di rating per dire io ho questa esposizione con questi crediti di questa qualità, dà un ruolo forse improprio. Certamente. Bisognerebbe che anche l'Europa, no, ci pensasse da sola. Professor Bruni, la ringrazio, mi scusi per il poco tempo a disposizione, ma l'aeroporto di Grazianese mi eccitava troppo. Io spero veramente che non si faccia questo aeroporto. Festeggiamo comunque, a mio avviso, che Monti ha bloccato le Olimpiadi, e vabbè, bellissima cosa, ma troppo rischiosa. Grazie all'economista Franco Bruni. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.